Io sono uno di quelli che ha creduto in lei. Sono stato deluso. Io non le ho mai creduto. Ingegner Marchionne, con tutto il rispetto, le sentenze dei tribunali, bisogna rispettarle. Guardi, ingegnere, che lei non sta parlando con uno a cui si può raccontare di tutto. Una grande azienda come la Fiat ha avuto tanto dal paese e non è che può pensare che se ne va come se nulla fosse. La Fiat, rispetto all'Europa, sta scendendo dal punto di vista delle posizioni nel mercato automobilistico europeo. Oggi è il giorno della gentilezza e quindi anche il Graffio ringrazia il ministro Fornero e l'ingegner Marchionne, capaci nell'incredibile impresa di mettere d'accordo su qualcosa i cinque candidati alle primarie del Partito Democratico. Grazie.